Andato, perché stanno a lacrimare, ti recitano meglio d'un giullare. Ah, comprendo il dolor di tanta perdita. Ne ho l'anima commossa. E la perdita è stata proprio grossa. Son cose. Ma come si fa? In questo mondo una cosa si perde, una si trova, si perde vuoto. Ma c'è l'eredità. Diseredati! Niente! Niente!